Stefano Casi, Teatri di Vita, stagione 2024 per quanto riguarda settembre, ottobre, novembre, dicembre, in cosa consiste, quali fili rossi? Teatri di Vita poteva farsi sfuggire la polemica estiva delle Olimpiadi e allora ecco che la stagione autunnale di Teatri di Vita si intitola Cromosomi teatrali, a proposito di cromosomi, pugilato, Algeria e via dicendo. E tra l'altro ci sarà anche proprio uno spettacolo dedicato all'Algeria e alla condizione delle donne con La donna fatta a pezzi, una produzione proprio del Teatro delle Donne da un racconto di Assia Gebar. Questo per far capire come più che il tema, gli stimoli, gli spunti sono quelli dei cromosomi e quindi del genere, e quindi ovviamente l'identità di genere, ma anche il genere come spettacolo, il genere teatrale che si confronta con altri generi, altri linguaggi che vanno dalla letteratura al cinema alla musica. Quindi una stagione, chiamiamola degenerata, per rimanere in tema di generi e di cromosomi, dall'ultimo weekend di settembre, che inizia proprio con la degenerazione assoluta, visto che è un Frankenstein. È un Frankenstein diretto da Ivonne Capece con la compagnia Elsinore, che unisce teatro e cinema in qualche modo, ma coinvolge anche gli spettatori con le cuffie wireless e parla più che del mostro di Frankenstein, dell'autrice di Frankenstein, cioè Mary Shelley, che in quanto donna nell'Ottocento era, tra virgolette, mostruosa nel voler fare una cosa che una donna dell'Ottocento non poteva fare. Ecco, qui diciamo, già in questo primo spettacolo si concentrano tanti elementi, tanti spunti di questi cromosomi teatrali che andranno avanti poi con altri spettacoli. In questa stagione avremo anche delle cose più leggere, questo lo dico perché l'ultima era abbastanza impegnativa, e quindi avremo la coppia Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli con i due spettacoli Ridi, piangiti, ecciti e Minuscoli granelli nel barattolo del cosmo, quindi degli attraversamenti sulla storia dell'umanità tra slam poetry e teatro, ma anche il Pigiama Party di Baladam Beside. Gli spettatori sono invitati a presentarsi in pigiama, ovviamente non è obbligatorio, però nelle altre repliche c'era davvero spettatori che andavano in pigiama e questo è sicuramente molto divertente. E poi c'è l'omaggio a uno dei nostri autori di riferimento, che è Bernard Marie Coltès, quindi riprenderemo Le amarezze, che anche qui ha un aspetto al genere, ha una particolarità di coinvolgimento dello spettatore molto particolare, molto originale, e sempre in tema di originalità l'altro Coltès è Foresto dei Babilonia Teatri, che hanno ripreso un testo di Coltès sulla diversità del migrante, lavorando su altre diversità, tra cui il linguaggio dei segni. Quindi ci sarà un attore sordomuto in scena che reciterà l'intero monologo con il linguaggio dei segni, ovviamente anche con altri linguaggi che si intersecano e così via. Ecco, questo per dare una panoramica. Poi ci sono anche altri appuntamenti, spettacoli da Dino Buzzati, da Philip Roth, ci sono altre suggestioni, però diciamo questo per dare un po' il senso di questi cromosomi teatrali. Modalità di abbonamento, come di solito ci sono particolarità, ci puoi dire qualcosa di più? Sono 12 spettacoli e l'abbonamento è a 79 euro, quindi anche quest'anno un abbonamento assolutamente vantaggioso, già con la metà degli spettacoli rientra. E poi anche considerando che ci sono alcune nostre repliche di spettacoli precedenti, la replica forse più eclatante è XYZ, Dialoghi leggeri tra inutili generazioni, che è uno spettacolo con 12 giovani artisti che dialogano con un politico. I politici quest'anno saranno due, perché saranno due le repliche, quindi ogni replica ha un personaggio politico di riferimento, e sono niente meno che i candidati alla presidenza della regione Emilia-Romagna. Quindi Michele De Pascale e Elena Ugolini entreranno in scena insieme a 12 giovani attori per parlare un po' di sé e di politica. Grazie. Grazie a te.